8 anni, ero K2 lo cancello, è morto. Riprendi però, è copiato. Se no, verso questo sta nella Aitre del Giovanni. Non si è sentito oggi Giovanni, no più. Senz'altro, ma già siamo qui. Riprendi, Salvatore, ti rimetto il cambio, vai. Cappa, grazie. Ma lui mi ha copiato prima? Detto che non ti ascolta, siete in due posizioni non favorevoli e quindi uno non ascolta l'altro, però io a me mi arrivate tutti e due al 100%, quindi Pirù non ci mette nulla sotto, perché ti sto ascoltando con Pucche Santiago, che ero quindi un po' e mi ha contento che c'è la radio e timbe. Sarà la radio 5 più, va benissimo, il segnale, molte volte il segnale è anche un collo di, diciamo, relativo, e la radio 5 è come, è che io, diciamo, ho la lancetta del 9, capito, e sono un collo di lancetta, secondo, perché ti ascolto benissimo di radio, quello secondo me quando non c'era una radio buona, il segnale è relativo, hai capito? La tua è bellissima, 5 è perfetta. Salvatore, riprendi. Cappa, senti, ho premuto questo tasto. È cambiato qualcosa? Ti risulta che è cambiato qualcosa nei tuoi confronti? Sì, sei sceso di parecchio, di due Santiago almeno. Cappa, quindi si scende, ho capito. Mentre in questa maniera... Si sale così, Salvatore. Oh, allora non riesco a capire. Ero convinto che premendo questo tasto si autoregolasse il wattaggio in trasmissione, evidentemente non è così. Boh, continuano ad avere una marea di picchi negativi in questa maniera. No, i picchi sono positivi qui alla mia radio, e aumenta notevolmente anche di più di due Santiago, e non lo so, comunque poco fa la radio è rimasta come quella che avevi prima, però il segnale è sceso. Bah, mi sa che tutto sommato questa è la configurazione migliore. Sì, è perfetto Salvatore. Perfetto, così arriva benissimo, ma che poco fa, capito? Quindi, quando ascoltiamo di radio, poi il segnale, diciamo, è che mi interessa più di tanto che la lancetta o sia su 2 o sia su 5, e la radio è a bomba. Ecco, però sono convinto che la qualità radio migliorasse, devo leggermi meglio le caratteristiche di questo... questa cosa qua, ma comunque non fa niente. Rilancio pure la Pinuccetto, se no lo facciamo commentare. Grazie Gianni. Perfetto, Pinuccetto, hai capito, mi arrivi bene lo stesso anche tu, anche se non c'è la segretaria lì, arrivi bene lo stesso. E ti stavo dicendo, invece la mia radio va bene, qui non devo toccare nulla, no? Per quello che devo portare un passo. Sono l'MBQ5 per questo apparecchio. Ok, quindi già si fa sentire, bisogna fugare a trovarne altri baracchini, perché lì è pieno di baracchini e ce ne sono un sacco, devo superare questo. Ok, questo mi va benissimo, c'è il gemello qui, mi va benissimo, però diciamo adesso vedo le lacrime all'altro, al K, che deve essere che non sto facendo funzionare, no, perché stasera faccio una poletta, qui ancora ce la vuoi fare qualche cosa, perché io normalmente in scala qui sono su canale 11, sono, invece dovrebbe essere su 10, c'è qualche cosa di quarti forse che hanno toccato da metterli, diciamo, nell'ordine giusto, però quello è un attimo, perché ancora li ricambio tutti pure, ce li ho, però bisogna vedere che hanno toccato i quarti, siccome l'ha modificato a 46, io l'ho ritornato come era in origine, però qualche quarto l'ho spostato e non funziona, hai capito? Perché dovrebbe essere nella scala sul canale 10, perché nel 5, quando l'ho messo in scala nel 5, sono sul 5, e invece qui siamo su, in poche parole, sul canale 11, non deve essere così, ma qualche fesseria della sintesi dei quarti, ma domani se c'è tempo facciamo quello, riprendi Salvatore. niente da dire, niente da dire. Adesso io provo a fare un giro in altre frequenze, a vedere se sento, perché non riesco a, mi sembra che stasera non ci sia pagazione, non riesco a capire, voglio vedere se aggancio qualcuno di fuori, per cui con permesso già non sei da solo, nel caso ritorno dopo a salutarti, io già, salutami il Piucetto, che io non copio, vai tu da Triangolo, e buon proseguimento, dai, faccio un giro su altre frequenze. Ok, salvato per Propana, 650 50 c'è qualche numero, 650 se c'è qualche numero, poi magari se non c'è nessuno, oppure se ci sono mille capri due fa passare il 27. Riprendi Pinuccio, ti rimetto il cambio, vai. Sono a Domenico questo weekend, c'è l'acqua qui nei cacchidogu e mi ha mandato un fascino da una cosa, qualcosa la devo trovare, cioè non me ne sono dimenticato la più, perché è anche come si chiama, lo spizio che voglio, il cacchidogu questa cosa è la guida vero, questa bacchetta nelle due, però devo fare il memorino e ho compreso, se te devo usare la radio sono, da io in montata, ne ho curiato uno, però una cosa che ho avuto, questa bacchetta, questa antenna, questa per la ferrite si chiama quello lì, la poi la per numero non ho mento in due, ok, perfetto, ma non ero venuto come più in là con la posto su questo campo della forte del ringaraggio questo manno, hai capito, lo metto a posto giusto per averlo, giusto per averlo, e a capire chi ogni tanto lo attaccamo questo muro, non è bimbi, no, una vez poi basta che io mi piacerò perché è una valvola sua, da un preso, quello originale, questa valvola già di un problema, deve essere originale con le valvole in vetro, più, hai capito, poi per il resto dovrebbe dare, capito, quando è originale a me mi va bene, mi devo fare valvole in ceramica, così la pulita, però poi dicono che una cosa, diciamo, un preso che ha modificato una cosa e non è più l'originale, un preso, per anche non fare se usa valvola gai, sei zero, fanno pure, poi te la voluto fare, non conviene di la girare, pagare a modificare nulla come lo fanno fare dei zero. Ma non me la leggo su questo. Ehi, effettivamente, ma dopo la si sua andaggia di questa di ceramica, è andata a volo a piazzare. Giannoni aveva un domani con il tracciato, l'ha tornato. Comunque mi viene le cose, ma un po' mo su metà verde, più di niente, no, ma un non dico così. E vedi abbiamo la telefonente, questo tecnico del Tappare, che era proprio finanziario, erano grandi amici, eravamo, e neanche molto più che da fare, devo solamente via in feria, giornale di non vediamo su. E in quel laboratorio si berretta la cosa, che non hanno pulito dai primo, è pieno di cose, fa di ogni cosa, trasformatore, e più appunto a tenere la vita, e Caseri invece, che non guidava, se telefono non mi sa guida, non potete mi abito sbaglia io, che era compreso, tramite dice che ho fatto delle mie sbagliate pure che sono della foresta. E niente, non so che esistono a contattare, come, boh, in dopo solo non risponde nessuno, quindi sono preso in serie sicuramente che si è avvenuto come dipendente con pugno. E grave, te qua fa di ogni cosa, e qui va il trasformatore, che se non lineare lo fa niente, e autocostruiva lui, fino a... Sicuramente magari su pugno si via dai Giannoni, molto probabile che così, che si deve fare Giannoni anche lui. Ok, ma oltre le maniera gente di Giannoni, a suo solo però va a qualcuno di gente di Giacomo di Giannoni. Fate, quindi pregamo su di lui ancora due bene in vita, se no usiamo perché se non fa da ognuno di noi chi ha fatto qualcosa cosa che la condividano e feata ok, non lo so io ho parlato, so che una persona che ne capiva poi con Monico a 90 anni, a Patronano, che funziona ancora questa conca e bisogna vedere hanno un affannamento enorme, troppo ne ha compreso, però bisogna capire compreso questa cosa come se fosse fine facile. Magari facile. Si siete più avente, quindi è quasi pronto mi avvicinare su questa cosa. Non importa, mi si prende, l'unico che era combinato e beh, non può venire l'udeo e non mi si accorgo a lui. E no, me non fare la fare nuda, per lui la cambia per te ne gustai anna, la che ancora non può della terra, le luriga, e non pare che sono un po' la lettura. Comunque lo meno, se io sarei anna, le ha fatta per la intro. Che come se ti trovate, probabilmente già fatta, è tutta per lì, se ne devi rifacciare su pavimento, con l'usa che cosa, caro mi piace le cose ora, sono per te, con lo pinto tutti in cui, fino a che perché la comanda qua, a come è tutto lungo. Poi abbiamo avuto un giorno, tra poco, con una commissione, neanche lascia la corrigia. A poco sono lì in garage, a cui sono nati dopo le salvezze, la che vuole per passare, non vuole da per la fuori, come te salvezze, sapete più. Si è fatto un qualche tempo da fare la sua, da pubblicato meglio. Secondo lui sono fatto per la intro del menù, compreso che dobbiamo facciare un vicesinale da sul pavimento, compreso. Poi su partita che noi di quei curvino, di questa cosa è al centro storico, non potete toccare da misura, da vicesinale, da a fare nessun disegno. E noi sicuro che è un centro storico, no, dare, e che non può toccare nulla, ha detto. Fino a indomo, non può toccare su chi pensa a passare, non così per la carne, no. Comunque da me ne sono venuti che porto l'antico, non mi dà fuori intanto, rimbendo quello delle belle arti, non la vuole toccare, non posso fare sul zoco un sabella come te ne so io, insomma vino, chi paga però la nostra padrona di domomia mi vino. Se te vino il nuovo della sera che sono fatta l'acqua, no? Ma i tipi tu mi dà salutare, io ho una verra, una roba cappellina, però pure il minore. E i cagliani interati fino a un crepelli che ogni cosa mi chiedo io la potevo in bucciacca e mi la proprio sempre fatta che la dare la gnum, fino a su gumma, quando la faccio con invidioso, in vita, ogni cosa la posso sempre fatta di bucciacca mia e andare a pedire un cagnum. Comunque, sempre come io, cosa lui, qua, sono un dappo capo del sopravvalto mi vino. Che la sai, di qua parti a Teodale, le ne ho. E a tutto l'altro con la cosa che hai appomato in cui però in vita è paziente che si ha fatto un addomo lo vino e lei ha fino a 200 metri di vino si ha fatto un impianto gai e si attrae da una pesca che si deve usare sono poi collegato ad altre cose e ha fatto un impianto volante gai dai io dico no lo compro il domo non lo posso fare capite sono più attento se è questa maniera però di un a chi viene a Romini non ho fatto vedere il tizio mi ce l'ha fatto un po' la cosa per tu non mi viene mi ti ha ancora fatto un mozzo che non l'ha fatto che non l'ha contato mi sono lasciato so volante che ha solo questa mamma che chiede fino a 200 metri lo e un gara e ho dato un finta mi te venu se ne vuole quando dai dopo la corrente non è che c'è chi su contatore non segna che non sarà fatto nei cuore. Un preso, guarda, da loro sempre pagati, sempre consumenti da loro elettrico. Ma il nome di nome che hai, come te tu vuoi fare una cosa, tu tu di non addosso, e tu vai da del gente per te, quando non si fa che sono a fare suo, so, e a me mi dà fastidio di tutto, mi dà fastidio di te. Io ci do una cosa, mica, se non mi dà tutti in nulla, anzi se uno è mezzo verde, sono contento, un preso, no? Non mi interessa più di tanto, invece il nome, se non mi chiede una cosa, io mi faccio andare bene appena appena, di fare il dedotto, poi di pubblicare in tempo. Già ne capi due. Ma il nome è divino. No, l'utere mia ha nato, che mi ha invitato, se mi dà mia, non è che non gli ha mai, è che è vero, sempre cammina, la prima parte si fa rispettare, una fase subito, e adesso gli opera uno, gli opera subito, usurava, non so, la mentalità è giusta, mentalità no, quindi chissà che se il 9 e 27 anni, però la mentalità è giù di fare una cosa, la voglio pagare. No, io sono stato un indò. E ho da lei, le voglio, ma a parte il canna con quello che avevo sopra i lati, cioè ho dato un sopra i lati, a fora ma che non poteva bere, cosa ha fatto, fa che dice un po' da lettura puoi avere. Cosa ne succede tra poco il tema sarato, cui. E poi è preso, va bene già, la chitarra lo si è un giorno in garage. C'è una cosa ma che quando ha per il cuore sono le mani, ma che cacca le sa per sé ne santa manna. Ha portato le cuore sono da lighetta e qui non la sabbia che la fa bella e si è passata di volta con un fermo, vuol dire prima. E canale, denaro, poi di lupo e sarà scesa, e questo è mi venuto. Sette manna e finù. Di due umano per andatomi. Ma come ti racchi di parlando con tua, che ti la controllo o non sei riuscito? il dume umido. Guai, ha tornato in grazia poco questa razza bambina. Si deve andare a soffrire un po' di mia, quando si è molto spaventa con il mio comando. E non buia la ecue. Non valete già quando sono di più cade a fonato che non posso pagare che sta centro storico su Michezzo, Pinù, compreso, fatto la male da voi e puoi entrare come se devo fonato se va fatto con tagliare il tetto sul pavimento, Pinù, non so che non è uguale se avvenia mai intro, non chi ha di posare sul pavimento a pagare un disabile e a fondo un progetto. E ha fonato, lasciate il mio male, ha fonato tanto ha fonato questa modale se che nessuno dello garage che avete di giovane e pesci da fuori, da una foto, ma con questa persiana sapevo che pesci uno in carrera che aveva San Vicino, uno con marciapiedi, come se a una bella cosa avevi una foto da bene che vicino a dopo, un teo a peso, mi dico la faccia, uno, ma che si cosa, lo avete da fuori la persiana, ed è stata una attesa di un uomo che si passa da Capresene per la faccia, ma che si cosa sei Anna. Io mi vado tutt'anno, sempre mi trattano, cioè non faccio il modale che è a Roma, ormai mi conoscono, però fino a casa andrà io, non mi conosciano il Pinù, e si dico, adesso in questa carrera, non faccio a nasa mano, invece no, come si tiene uno pulizieri, compreso subito nella qualità, andiamo verso qua il Pinù. Ecco mi deve da Otaza, sui controlli questo paesano. Io non la penso mai, io sono una persona che tratto bene con tutto. Cioè non la penso, invece c'è il suo bar, da Otaza, che hanno fatto io, devi gioco, mi fanno io, entrando due bora, come il gol, gira, mi da chi voi ci dobbiamo attuffare, e non va bene, Pinù. E ma voi Pinù, sono primo che aveva la vita tipo la tua, o tipo le mondere mia, e che è ben trattato, so, fare ne ci pare da poco, ma di che ne cuglie che hai. E i cavalli che però sono trattamenti tipo se no, e lo crevano, buffende, ma di che, le gai si chiede ne me. Proprio un coso che proprio non è tenato, ecco, e trattanai le sempre. Ho preso no, in modale curva la Iana, che aveva questa roba su, che aveva dente, de o tale chi. Bisogna fare ambientare, fino a si fare l'antunna, noi, gai, quello per subettiamo, e si casa, te dobbiamo pesare tutto su mura a pedra, e della ossa, di giallosi frappo, e di mala maniera. E entrare però, questa roba poi, i confina Ia, fino a... E noi se che compreso con la cartella subito no. Compreso pagata, so se che giugata tutta la famiglia, pizzinetto, timonio, se pagata con un bene danno il suo confine, se. E in cui si apportava la chino che non veda, se. E non avevo, mi stai apportando il petto, questa ossa, potete finire posso male, su muro andrò a pensare, pigliere zente, pigliere dentro di nuovo, ma è per fatto, fare a suo padrone così, solo lui Kenny pure, di quel papettiamine, di un preso che è tanto neodale, che hanno di cappa da una, delle feghe, poi ne ha fatto un'altra, tutta una cosa mi viene, la gente che pensava si pare Santurna, noi gai, ma noi gai però, noi gai non mi sono mai andato, Rispetto proprio a me mi ha lavato me e ci hanno dato le loro anche di piena da buccia da cui dai non mi lo fai andare no. Da noi il cacchio di ossa mi la compra io le buccia di queste ma non le mandi con cacchio di modale mi l'ha andata con lato mio sempre che non mandiamo delle mie alla via da però parlare devo solamente no perché la gente i cui si deve da chito tripla di saroppa e tutta questa cosa fino a che deve andare Deo la domenica a guardare il luogo questo non è mai avvenuto e mai è davvero fino oppure a micchettare i diffuntino dai che deve andare in cui a preparare già, si vuole preparare che deve venire a combinare cosa però non si preoccupare mai con me fino a uno piccolo vale caso andrà bene che la fai tutto questo pranzo non finendo me da un peso si importante se che non obbediamo fino che non salutiamo toccamo sa mano io non faccio gai e comunque fino un preso è passato una bella via no ma proprio per sapere io che noi non frequento sale mesi qua del sugaccio, danno questi, mamma mi giovano, ancora, non credo, quelli qua da perché una categoria che non sono a giovare, e questo punto le mi si trasferta, non li già non compreso tutta la famiglia, sa, quando io la può venire su punto, no, io pure, si aiano, e sono capitato a tappare, se vuole andare, vabbè, cosa proprio, sarà aiuto, non vedo la fama dei coccoli, no? E scambi 30 su gara, fare che dell'osteria da? Ma la Iana, come ti dicevo di chiamare su coccoli, si ammucciano di Iana, e ne vedi sono fatto adesso, che una e due e tre, e poi mi passende, sa cipria mi passende, io vengo e... però non hai dove dire che era una persona tranquilla e no... e se si vede una figura da chi già non crede ne... ma poi non lo comprova a voi, si dio sulla tua mano, questa una, vedete, e poi puoi farci comprare di tre zone a finire cosa. Poi, perché non era su un bar, qui non ha provato a vicini a subito, ma sono tornato a questa avventura, che mi tutto un riccio a questa avventura, che non è che non crea di cui, la poi pago a poco che l'ha fatto, poi allo guanzino ha tornato qui, si comporta da ene. Poi capi, uno si comporta bene, e tu hai che cambio che mi su fa il buffetti, non so portare, cioè andiamo a fatto un ragnone, non ho preso, adesso ha parlato una persona che mi dice, ma non ha visto una macchina di calcio, ma fa vedere la macchina di suo calcio, ho preso, non sono andato a vivere una mamma di coccoli, non dico che ero io, ero un nipote, sono già fatto, però con tanto di rispetto ho preso la buccia, la moglie di una buccia e poi, perché pure nel finire di credere, pure no, ha tirato volare e cominciare a fightare male, che durante la mattina cominciano a battere in altro luogo, capite? Questa gente che io qui mi dà seguito, quindi non gli do, quando mi si trasferta, sempre a tuffarlo, sempre a tuffarlo. No? E infatti, e già, dico, io ti sento, non conosco la... chi viene, non si sa, niente, mi tengo a po' di ospitano e mi tratta bene, se no andare, capite, uno del Bebin che gioca la pallone, mi o fare uno, a un gioco di sport, e non è, a essere, diciamo, non si è sportivo, si compreso, e solo io, no, non dirò con la lega a punta male, ho proposto, mi dissocia io, devo sia nella partita, giusto, non fare nessun numero del normale, poi, più che cambiavo ho fatto mio, ma la volta con la partita, io partita. Poi scende su che sostenia, lei, su che sostenia, va, e riscende pure di porre in guaio su questa giustizia più di una volta. Comprende? E quello bisogna sempre, bisogno ancora, bisogna sempre il calo del bisogno in vita, e questo proprio che diventa una, sempre delle guattate luogo, quando caffè, casa in vita, un bisogno, quello sono preso un patto, bisogna sempre chi rompa la scienza. Perché mi devo attuffare, devo mi rompo, capite, un paesano mio può difendere la isola, può amiche mie coinvolgere a mie, se andavo tranquillo, non lo mi puoi coinvolgere, caso con l'isola mi devo attuffare lei, ma come il senno bisogna. E sempre non mi rompo, fino a parlare a cacchio, sapete, sugati, lì, ma via sta riunione, con la soffonale, si sa fare, e a dei vari paesi, poi lo pullano, e una volta vanno andato, mi sono andato, so. E il cuccio si è imbriacato, Pinù ha fatto un nuovo alenietto, ormai se non cammina da mandato questa notizia, già, per il posto sul pullman ancora, perché quindi il posto sono a tutti, nemmeno la polizia, quindi il posto sono a fare da, a non brugliare io, ma chi su pullman, e infatti, ma me la volta più quando andai io, l'hanno bevito tutta la volare desurare la macchinetta, quindi bevi pure un buffato, però si comporta a bene, compreso. Però bevi pure uno che non è buffato per noi e ti dai da male travassare. Ah, lì che ti tempi, non ho già naivi, sì, però sapevi, sì, e più mi contento su Matteo, di vestimi, compreso, e che hanno quel dia, ma, cioè, non è che non dovessi fare, non lo vale per sbagliare a fare su Matteo, ma, se mi sembra gusto, sono in un piano normale, già appena ecco, ma, mi, no, e, poi, praticamente, e, mi secondo me, sono andato a fare un incontro di pugilato, e, intendisco, io, vedete, da volta, voi, papà e mamma di che vi vicino dello direttivo e altre gente che vi hanno tempo di squadra volutamo su Mattesi, però a parte per presentare, vediamo se brigaiana fino a Traisso nel suo locale, sa riunione, se sa pure l'avvocato, no, tu viene quelli in cipreta di Nalo fino all'epoca. Come te ne dico cosa parlare, abbiamo sempre riunione di quella con il suo calcio, sempre un ombre che ne si contate di domo, li amavamo per la porta, no, la porta, da canto la lievo la di domo, quando io da pomato mi vedo svizzere, a pomato e stare tranquillo, ogni sera mi stavano viene gente, sempre ciarrene, le curve, un altro, e me da un capino, mi detto la macchina, io vanno, e mi dicono una vita, buono, però non può stare sempre gai, a ma pomato, con quel capo la pompa trova a realizzare un taglio, e che ha fatto guai, tutti si fanno sempre presenti in domo, le cose che a me non mi ne ha putti a nulla, ora mi sono visto che ne fino a Saturno di notte fino. Ma non mi vedo raffone né in feta né in comitato né nulla, mi sei minorizzato, mi sono visto poco solo dai bussacchi in aria, infatti me lo fanno di comune difficilmente. Ma è mai più da stesso, no? Ho detto una cosa, ripeto, non voglio anche fare il nubi in nome, non credo la nubi in nome. E prefero, diciamo, raccontare un contributo, un minuto, no, compreso, però amico, non è del comitato, no, no, fa ben figlio, ma sta bella foto di Bucciacca, uno là che non può neanche di nari, che non prende mai in più, lo frigo lì però te venta. Quando la pare sa rica come no è tale nuovo, quindi non la passei a sudare le dita, fino a fuori una chica pestizio, papà mio, sa una chica per piacere, vabbè, uno anda, lei tutto un po' male, se poi o dare chi uno impara per la cosa che si manica sulla salvezza, ma poco su lui, o cane non l'ha fatto, non l'ha fatto questi nuovi, perché poi non sempre, si chiede sempre la notizia persone, se è compreso, sullo salvezza che ha gai, che un anno per corso e salteranno per corso il tutto, compreso diversa nuova posta da offerta, e o canno non ha fatto mai una fetta, se ne è di subattoma non mi accusatela. E quindi, Deo, che hanno passato un contributo sulla proposta della propria, però non mi bimonere, ripeto, non mi bimondo, io sono amico di tutti in vita, però non mi bimondo in nessuna pega fino. No, poi che hanno andato a separare una cosa aveva il babbo scomitato, beh, vino, ha tagliato una macchina per la lotteria, beh, tiralo qui, fino a che l'ha fatta e l'ha comprato questa macchina, poi ne subito tutta la lotteria, e non dico come te l'ha fatto, vino, poi mi ha finito adesso l'ultimo seno, no, appena tutto il biglietto, no, quasi no, proprio, quindi, questa macchina se ne è una pagata dei buoi di Bucciacca e della cosa proprio burro e ritirato. Infatti, che hai. Poi tu, Sanzulli e Gesù, da poter andare, compreso, obbligatorio, come torni notte con Dora e cadi di termine. Ok, mi ha fatto piacere, comprese, cambiare tua peraura. Ci sentiamo domani, vai di più, tanto sto entrando un po' fa gente qui. E così, me ne vado a nanna e domani ce ne andiamo al tabacco, se Dio vuole. Per il momento, di nuovo, saluto a tutti gli amici del 10, anche in ascolto, se ce ne sono, capri 2 passa in QRT, SK, e chiude le trasmissioni per non riprendere più. E chiari. E poi ne lasciamo su uno da che a casa di Arreiuno, riprendi più, ascolto il finalino e poi chiudo. Ciao, fino a domani, ciao.